prova. Sì, vieni avanti un attimino, per favore. Attenzione 10 per un controllo. CQ10. Sì, avanti CQ20. CQ10, questo è il canale 10, avanti. E se lo chiamo 20 che cosa succede? Che succede che il canale è sbagliato. Lo chiamiamo 10. Ascolta, dimmi come sto uscendo, per favore. La radio è un po' così. Troppo alta? Fabri. Ciao Walter, va Walter, va Claudio. Ciao Fabri, ciao anche a Antalino. Sì, va bene. Ok. Sì. Adesso l'ultima cosa che tocca a fare, ho montato il filtro. Ho toccato leggermente, quindi questo sembra che vada bene anche il la portante. Adesso devo controllare un attimino, regolare lo smitter e vediamo un po'. Vabbè, se l'ha fatto quella fare nella portante, Fabri. Sì, ho abbassato leggermente la corrente, una corrente, dai. Tu sai quello che io l'ho visto, ma non vorrei di fare danno. Va bene, ottima radio, quanti anni hanno? 60? Sì, 60 con la tua regolazione, non è che ho toccato niente, ho solo fatto quella roba là. Adesso aspetta, ti mando un video aspetta. Ehi, c'è Marco a 450, impegnato con i satelliti. Se voi ci abbiamo operativo il canale 20 noi, Importante, 1, 2, 3, prova. Adesso ti mando il filmato, 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova. Spero che stia andando bene, adesso abbassatamente la corrente sul finale, va. E mollo. Fabrizio, vuoi fare qualche prova per non disturbare? Perché sono anche con Marco. Ci vuoi passare sul 20? No, sì, adesso per me ho finito, adesso tu mandati il video così lo vedi, lo smitter e poi controllo lo strumento e lo richiudo. Va bene. Oh, ma qual è l'altra frequenza? Anche Natalino. Siamo sul 20 perché noi la sera operiamo e facciamo, ok? Ma qual è l'altra frequenza? Noi siamo in V a 145 e 450, in U a 433 e 525, sì, tutto simplex. Ah, perché 145 e 450 e non 525? Fabri, perché Gianfranco con Marco e Roberto fanno le prove compiute, che là, se magari vuole entrare qualcuno a 525 per non disturbare, capito? Ah, c'è una frequenza che non si usa, abbiamo questa, almeno la teniamo occupata, ho capito perché è 145 e 425. Andiamo, bisogna usare 145 e 525. E poi io non capisco, ogni andato si chiama le regole. Ma lui capirà Marco. Io non mi dico a me Marco quella mi ha dato e lì sono andato. Fabri 450, Gianfra, anche qui siamo. Sì. Hola. Avanti, hola. Sì, buongiorno. Allora, sto facendo una prova. Abbasso un po', aspetta. 1, 2, 3, prova. Eccoci qua, 1, 2, 3, prova. Come ti sembra, Fabrizio? Ascolto male? Troppo amplificato? È troppo amplificato. Ciao Fabri, abbassa anche la radio, ti porti dietro la radio. Ho abbassato un pochettino, lo so, ma sto facendo delle prove, poco mi interessa la radio, dai. No, un'altra radio che stai ascoltando, un'altra frequenza, ti portavi dietro quella, adesso va meglio. E adesso ho abbassato, no, stavo facendo delle prove, stavo facendo un lavoro sulla radio, dai. Vai, Luca Rie. Sì, adesso va bene Fabri, sono arrivato adesso, questo sistema la spesa, dai, l'ho acceso adesso il baracchino, adesso arrivi, vai bene. Va bene, anche questo l'ho regolato. Allora, faccio entrare un attimo in accoglie a fare un controllo e poi la chiudo. Ora, attenzione al canale 10, c'è qualcuno? Ora, 1, 2, 3, prova. Ora, 1, 2, 3, prova, cambio. Ora. Sacca, prova. 1, 2, 3, prova. Che progetto? Chi è? Mi ascolti? Ehi, buonasera. Ehi, ma c'è un casino, non non capisce nulla quello che dici, se ti sovramodula, no? È il caso. Come mi sovramodula, no? Ciao già. Ciao a tutti, dai. Non ho capito, no, già. Cosa stavi dicendo? Ah, tu sei da lì. Si sentiva forse il televisore, non lo so, ti parlava sopra. Dice Vittore che mi parlava sopra. Che col microfono invece è troppo amplificato e prende tutte le cose di casa, capito? No, non c'è niente acceso adesso. C'era il ricevitore che mi sovramodulava e boh, adesso l'ho abbassato. Ah, ecco, va, fate girare, non so chi ci sia, avanti, se c'è qualche un altro, va. Ciao Gianni, non mi senti? Sì, che ti senti. Ma se non mi rispondi io so che non mi senti. Mi devi dare 5 minuti, sto facendo una cosa, stavo mettendo le cuffie a posto, non ti potevo rispondere, non perché non ti sentivo. Ehi, no, io ho un po' di mal di testa, ci sto soffrendo come un cane ultimamente. È acido oggi. Ah, c'è Rosi. È acido oggi. Chris, abbassa, c'è un bel altro di radio, abbassa un po' il microfono. No, se c'è la casa tua che è diverso. Ehi, lo so, arriva un bel altro. Ciao Chris, e bene, dove sei? All'incrocio di Pellaneta. Non sei vicino a casa, vabbè, sono a Salta Dolce, sì, dai. Siamo vicini, mi ascolti bene, sì. No, ti ascolto male, passo a passo. Cazzo, aspetta, il controllante nasco fuori, aspetta. Sono accorto, un attimo, arrivo subito. Qui sei a me che non mi ascolti, gava di gava. Ma tu ti sei togliuto da Itili anche. Ah? Ti ho sentito ieri, andava da Itili pure, passo a passo. Gava che era il campo sportivo, diciamo che giocava a tennis, ti ho sentito passo a passo a Itili pure. Quanto ti arrivavo il segnale? No, segnale no, ma te lo avevo la radio passo a passo, però ti sentivo un po'. Ma quello di pagare l'antenna tua, no? Sì, quello sì, l'antenna piccolina ancora sul tetto, se lo metto in mezzo. Se ci metti la Turbo 2001, lì lo vedi come ti intendo a tiribare. E a me come mi senti, Cristian? Cristian, senti che è? Stava stando qui. Senti la Sassari, a fare un po' di spesa. Ma io l'ho già fatto. Io ho fatto la per adesso, guarda, sono la MD che ci hanno commesse. Va bene, già fatto, anche shopping. Ah, fammi di naso, si scendi, fa fare il guai. Di là, strisci, da poi lavami. Striscini, per mangiare soprattutto, un bel. Scusate, cammino, dice chi dà, io. Poi, vabbè, questo qui è per la cena tra il 24 e il 25 che c'ho mio figlio a casa. Dopo il 25 devo fare un'altra spesa. Già. Devo fare. Stamattina sono andato al Conad, no, vabbè, ho preso un po' di spesa, 200 euro così sono volati. Lo so. A me mi sono volati 500 di euro. Tra regali questo e quell'altro ce l'avete. Ma fate capire, purtroppo è una stessa. Se vuoi la roba a mangiare, se vuoi mangiare così. E poi Natale è un mio dimmi, non è solo. No, sono il 25, no, è ogni giorno Natale. Ma bisogna pensare anche che ci sono gli altri giorni, se no immagini se il giorno di Natale e poi tutto il mese stai a secchete. Vabbè. Avanti qui. Se sei un po' a dieta non fa male, Io sono a dieta, sì, a dieta. Siamo, abbiamo un vizio, perlomeno, io vizio non ne ho, già tu vizi ne hai. Io non mi, non vado a donne, non fumo, non bevo, vedo mi trovo la vita. Tu già fumi qui. Io non vado a donne, non fumo, non bevo. Ah, non fumi qui. Al naso. Infatti, vuoi quello che fumavi. Ah bene, non ci credo, non bevi, tu bevi. Sei cuocuomale, sì. Io bevo leggero, vai. Fumo e vado sempre a donne. Quei vitti non sono mai tutti. Che salito basta. Nattarino, riprendi. C'è un zino assassino di traffico, lo sto odiando. Mi ha sovramodulato Cristian, forse non mi sente. Cristian, non senti Nattarino. Ciao Nattarino. Ciao Cris, ma come mi stai ascoltando lì? Fuori la scala, radio perfetta 5. Cappa, va bene. Ma dove sei perché? Lontano. Sono a sacro cuore adesso. Nattarino è qua, ma le basso, arriva con l'alternata qua. Saluto la mia casa d'infanzia. Cosa già? No, ha visto, gli ho detto di salutare la mia casa dell'infanzia. Perché non abbassa te? Lascia un po' l'amplificazione già, sono ben forte, non ti comprendo. arrivi fortissimo. Cane, oia, ma è vago di tutto. Parla. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, sei veramente forte che non riesco a capirti. Però se sei agganciato. Ah, cosa? Guarda, con l'antenna sta andando molto molto meglio. Stai praticamente mandando lo stadio di ricezione audio in distorsione. E allora scherzandomi già. Ma che baracchino stai usando per ascoltare? Il iPhone. E ti fa distorsione, ma saprà per il volume tu. E ti vuoi attenuare, se non ti capisco, eh. Va bene, va bene. Avanti, Mattalini. A te come sta arrivando il segnale? A me? Non lo sai. Che se lo usa? Ma per più lungo. Santalino è Santiago 5 qua. È vero, sì. È vero. Dammi a me un controllo, Luca. Come va, tu che ce la futti? Chi è? Franco, Sei più o meno secondo quante Gianni, Fra. Ciao, Fra. Ciao, Natali, buonasera. Parla un attimo, Fra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai, Gianni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, arriva più forte Franco. Gianni è 7 e Franco è 9, attenuato. Franco è una buona antenna, è piccolina ma tocca a voi. Allora, praticamente arrivate sul segnale, dai. Siete lì, tra il 3 e lo 0. E io sto facendo con l'antenna di gomma, per forza. Con l'antenna di mammo. Io sto facendo invece con l'antenna tutta ingrugliurata. E beh, Natalia, ancora non te l'hai piazzata. Scusate un attimo, Luca, prendo dopo. Sì, affra. Natalia, ma ancora non te l'hai piazzata l'antenna? Non la gara. Non mi sente Natalino già. Ho detto, non la gara, ripiazzata. Ma scusate, non mi sente. Natalia, mi senti? No, stavo facendo roba. Qui si va, dove si arriva? E via Romagna, sedete da te. C'è a casa la mamma, Secri. Sarebbe bene qui, di poco si scende, poca roba, cavolo. Ma l'antenna è fissa a base magnetica. Base magnetica? Se buco la capota della macchina, ve la foto. Cazzo, arrivi bene, di lusso. Se buco la capota della macchina di mio padre, ma anche no, guarda. Qual è il lavoro che ti ha fatto Antonio sicuramente? L'antenna, no, base Siria, l'antenna Lemme. Ma è l'antenna che ti ha fatto Antonio, che te l'ha taratta. Ma l'antenna l'ho comprata da Fusaro, non per altro. Sì, ma te l'ha fatto Antonio l'impianto? L'ho fatto io. Ah, ok, questo te l'avesse fatto Antonio. Però Antonio non ha fatto niente. Te l'ha fatto da Fusaro il microfono, basta. Ha parlato che ha parlato Fusaro, ok? No, l'ha soprattutto Fus. Ah, è bello, cavolo. Va di piccolo, è piccolino, ma è giovane, va benissimo, Ho voglia, avanti già. Ma la radio non è chiara, io non la so troppo chiara, Luca, la radio di Cristo, è tutta quanta. Diciamo che è un bel forte, è un bel amplificata. Adesso come la senti? Prova a abbassare. Adesso ho abbassato a metà. Adesso va meglio, un po' meglio, si abbassa ancora un po'. Adesso passa giù. Adesso non mi senti chiara, Già va meglio, vale. Oh, un attimo di bianco per me. Oh, già, scusate, Natalino non mi sente. Rosso, vabbè, arrivo subito. Cosa non ti sente? Ti sente sicuramente, sta facendo roba. Niente, probabile. Sei diretto a casa, Cristian. Ma no, vabbè, adesso mi devo andare a casa, scarico la macchina e poi mi rilascio il controllo. Cappagano. E a casa quando te lo vedi? Questa primavera sicuramente. Primavera? Sì, a scappa. Pur qua? Tanto devo rifare il tetto, devo cambiare l'antenna TV e tutto quanto, faccio un bel belle giornate più tranquillo. Ma le hanno fatto di belle giornate, sino a ieri era bello. Ma stiamo lavorando però. Io già ce l'ho fatta a mettere l'antenna. La giornata il 13 dicembre, il giorno di Santa Lucia l'ho messo. Ma io quando faccio con belle giornate vado a fare le monete in fiumi. Quando piove vado a casa. Vabbè. Sì, la puoi mettere anche quando piove, me la manita. E ti caccio sempre in macchina attaccata io, non c'è problema. Vabbè. Ma io la metto, la faccio passare dal finestrino di dietro il filo, in modo che non mi rompa le scatole davanti. La faccio andare dal finestrino di dietro, va meglio. Perché io ce l'ho così, mi fate credere. Io ce l'ho in mezzo a due sportelli, tipo, cioè, una persona vuole essere e posso dire... Ma io ho la gomma, c'ho proprio la gomma nel finestrino, no? Che anche se tu lo apri un po' il finestrino, c'è la guarnizione che non fa entrare no, tra gli sportelli che c'è lo spazio giusto giusto per fare il capo, senza romperlo. Sì, ma non pizzicato, c'è che si faccia. No, già messo bene, va tranquillo. Fa pagare. E il microfono che la sei già? Prox è tuo. Di M1000. Prox, sì, c'è l'M1000, Prox c'è scritto. Allora, fa una cosa. Metti che ti tengo le rotelle, metti la 3. Vediamo un po' come va. Adesso sono a 3, com'è? Guarda, adesso sì che arriva la tabella. Aspetta, una la puoi mettere anche quella del gruppo, la puoi mettere a 10, l'altra la lascia alla 3, vedi un po'. Buonissimo, aspetta, però c'è troppo eco, abbassa per appena l'eco. È di lusso, sento un po' bene adesso. Ti dà l'amplificazione, la voce è chiara, prima la magari voglio un patato in bocca. Non c'è troppo cattedrale. Ma va benissimo così, vai chiaro. Abbassa la pena. Adesso è uno, come? Adesso va bene. Benissimo, vai chiaro, se vuoi andare in viaggio, vai chiaro. Non si ricompensi nulla. Adesso è scelto, guarda, a caggia. Abbassalo letto, abbassalo la pena appena ancora, che c'è troppo ecco. C'è effetto reverbero. Metti la tra il 3 e 4, letto. Così va bene, eh? Lascia così, non si fa più nulla. Benissimo, chiaro, lascio così, dai. Così è perfetta, lascia la così, che, no, che adesso è regolata veramente bene. Non so se ti stanno ascoltando qualche due altri, te lo dirà. Adesso lo vediamo, dai. Aia. Mi pare che c'era Luca. Luca, sei rientrato? Certo, dove sei? Come entra Luca? Natalino. E adesso è fricato a letto, è legato con le manette. Forse avete parlato in due, dimmi Cristo. Qualcuno l'ha bloccato con le manette, deve essere. Avevo di manette. E qualcuno? O sta mangiando qualche cosa, ho bloccato con le manette in cucina. Avanti la tua. Ehi, sono qui là. Natale, Natale. Oh, yeah. Riuscito, allora, ho visto. Già ti sento, anche se c'ho l'antenna tutta ingrugliurata. Piccolino, piccolino. Senti la... La colpa è mia, c'ho l'antenna tutta ingrugliurata, capito? Vabbè. Comunque quando ho piazzato l'antenna nuova già vi sentirò tutti bene, dai. Ma se ne hai preso un dato lì. Come? Che ti ha sembrato duro sto concetto a posto. Perché sta parlando col cane, stava parlando. Cosa già? Ho detto giuro che mi scende. Non ti ho capito cosa stai dicendo. Ho detto se non devi scendere giù il cane. No, è già acceso. Beh ragazzi, io sono quello che mi dica che su chiusi in macchina, dai. E cappa, ciao. Il cane è già sceso. Vabbè là, ci sentiamo, io faccio quelle ticche, devo mangiare. La ciao, con la carica, ciao Cristian. Avanti Luca, ci sei? C'è la Zarbo lui. Aspetta che spengo televisore un secondo. Gappa, gappa. Eia. Mi senti bene? Sto usando questa alerta. Gappa, la radio me la potente. Sono contento. Sono 16 watt che ti va fuori. Riesci a vedere? Adesso va attaccato. 80, guarda qua, succede qualcosa, 1, 3, 4, 5, 6, guarda qua. Un po' saturo sei. Sono un po' saturo, aspetta. Devo ricordarmi qual era la cosa, come si chiama adesso. Questa va qua. Sei un po' strano, sei. Lo smittano, ritorno indietro, ma gli ha dato una pulita, sì. Sì, sì. già lo sentivo, adesso no però. Ma la radio non mi piace, mi piaceva di più prima. E ciò con lì è attaccato, sembra lo stesso difetto che ho fatto a te. Capito? Mi hai, adesso io stacco. Staccato, adesso un liscio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. Capo, quando faccio la potenza la radio è meglio. E io come ti sto arrivando con lo smitter? Fa passaggio? 1, 2, 3, prova. 6, 9 e 20 con PK a più di questo apparecchio qua. Adesso sono passato con il vattamaletta io. Così la maletta qua. Capo, tienimelo un po' sotto controllo, Antone. E via. Tienimo un po' sotto controllo e aspettiamo un po', qualche giorno, e poi me lo riprendo. E io va bene, non c'è problema. Difetto non lo sto facendo, per niente. Non ho aperto anche il coperchio dietro. Pensavo magari che invece... Ho messo il microfono e è andato tutto bene. L'unica cosa è il microfono amplificato, però bisogna cambiare il cavetto. Cioè, taglio, devo tagliare il cavetto e farlo nuovo in pratica, se no non riesce il radio. Però il di potenza è stabile, ho visto. È tranquillo. No, vedi, Gardene Rock D. Lo usi spesso e provi a vedere se ha problemi. Ehi, va bene, già lo uso tutti i giorni, tanto è stato un eco dall'altra parte. Io ho fatto l'evoluzione, è stato un eco stasera, adesso lo posso anche chiudere provvisoriamente. Mi metto in 20, tanto è che la scheda la controllo l'altro giorno, la scheda eco del Saturn Echo. Prima la controllo questo baracchino per vedere se fa difetto, ma sembra che sia stabile. Meglio così. C'è una radio allucinante, c'è quello lì. Lo so che porta questo baracchino. E andiamo in un altro ricco che conoscevo io. Non c'era per nessuno. Già me lo ricordo già. E poi quando faccio l'abbinamento con chissà bestia esce un bel forte, esce. E già lo so che esce fuori, a me sono accorto, infatti esce molto più forte con questo baracchio e con l'altro. Quando attacchi con la bestiolina. Gatta, quando attacco quella, Uiuia, quella spinge. Quella spinge sì, già lo grido. Scusa se torno sulla tua. Uiuia. C'è anche per i porcetti c'è. Tu pensa che io so se mettere in capo ti ha giunto tutto. Tu pensa cosa mi stai arrogando a me? A me se sono 100 watt sono 100 watt. Cioè c'ha tutta la potenza l'antenna, non perde nulla. Ehi, lo so. Così mettere il capo già lo credo, io ho 15 qua. Partendo dall'antenna, arrivando qua all'interno, sono 15 metri di cavo giusti e giusti, c'è tre calate, perché c'è anche la direttiva e vabbè, devo ancora installare la cosa. La VHF devo fare i fuori nel fianco e così mi sistemo tutta la stazione come si deve. Gaffa! Capo, ho visto la super lemme di una persona. Bella capo, me lo metto. Ma stavolta mi è stata quando capo. Ehi, la super lemme, è molto meglio della mappa, guaisce. Questo è poco ma sicuro. E poi non si alleggerisce, di dura tanti anni. Ci sono satellite 7-8 anni. Quando l'ho svoltata è come se avesse svoltata il primo giorno. Figurati. Avanti, avanti. Aspetta, ma che sono il telefono. Ehi, fai, già sono qua l'ascolto. Sta arrivando forte. Ehi, ciao marito. Ben alzato. Ben alzato. Vabbè, me l'ha fatto davvero. Sono tutto giornaletto, io l'ho preso freddo presso. Figurati. Perché dentro alla base c'era una, come si chiama, acceso, c'era. Ho ritrovato l'aria accesa. Sono uscito fuori, ma fulminato mia. E tu ti piace con il cazzo, con un nudo, non c'è nulla da fare, no? Io so che ti dica. Sono andato a con Giovanna, ci ha voluto un paio di bide, dopodiché sono risalito con la spesa, sono salito a casa, ma... c'è la mal di petto dal coso, però. Ma quello è il freddo che ho preso ieri, qui c'è l'umidità. È tutto. E adesso è il periodo, adesso è il periodo, insomma, purtroppo. Si deve coprire e dormire con le calze a culo nudo. Vabbè Marino, buonasera. Ben alzato Antonio Bau e Antonio Pomorino. Ben alzato, come andiamo? Cazzo, pure tu mi chiami così. Cazzo, dove andare al barrone, Antonello? E ginocchi Antonello. E vabbè Antonello gioco. Antonio, e ho sbagliato. Riuscito Antonello, dai. Avanti Antonello. E allora, lei a volte ci ci rimetti in chiave il nome giusto, ma Antonio, Antonello va bene lo stesso, mi non è che cambi volte, già va bene. Capo, ma guarda, al barrone tutti mi conoscono come Antonello. Tutti così mi conoscono. E cosa vuoi fare? Ci sono pensati così e boh. Un garrosello. E ormai quando è fissato, diciamo, ti conosco Antonello, si chiama Antonello, non stai arrivando. Comunque Antonello, Antonello 1, Antonello 2, Antonello 1 stai arrivando. Nello stesso segnale mi sta arrivando Antonello 2, a Orizio. Eia. Questo sono l'apparecchio di coso di Antonio, sto usando. Che aveva fatto dei difetti strani, adesso gli ha cacciato il microfono, sarà quello mio, del Saturnetto, questo che è stabile, ciò va bene, ciò va bene. Va benissimo, avanti Antonio. Cazzo, io sono, cioè, quella radio, quella lì è la mia, amico, quella che sta usando Pomponio, la lascio un po' in prova e poi vediamo un po' com'è, capito? Antonio, ti sento troppo provocante, troppo forte come radio, ma comprenditi. No, assolutamente. E allora forse perché sei troppo, c'hai il microfono attaccato alla bocca, tutto qua. Avanti Alessio. Ehi, io già sono liscio adesso. C'è attacco e spostato l'azione. 120 watt. Adesso è saturazione. Alessio è cotto. Beh, dai. Come va? Qualche volta in bicicletta, qualche volta in pullman già. E come capita là? In pratica va, come va, diceva, finché la barca va. Avanti Marino. E finché la barca va la si può andare. Fate i bravi, dai. Aghi, Domè, Antonio, ti sta copiando, Domè, Bombolino. Avanti, Nathalie. Ciao Marie, buonasera, ben sentito. Ciao Nathalie, ben sentito anche per te. Ciao da una signora, tutto ok. Avanti, Bombolino. Cappa, cappa, dai. Saluti a Concettami, Nathalie. E altrettanto a quella signora là che c'è lì. Cappa, altrettanto detto sa. Come sta arrivando lì, ai punti, onde sei, a San Giovanni? Oh Marino! Io veramente sono ottava, Saturo 9.15 e Saturo. 9.15 e Saturo? Allora? Prima quando è il segnale? 9.10, 9.12. Come arrivo Marino, l'antenna è ingrugliurata. 5, ottima. Saturo sta arrivando. Come? Ma Saturo sta arrivando. Saturo qui a ottava con questo apparecchio, Antu. Chiedi a Alessio. Non è che sia Saturo, è compresso, ho capito. Si sente che sta pompando. Qui c'è anche l'effetto reverbero. Però qua arriva 9 più, Quello è un bacino di Bobolino. Proprio non più. Lo smitter quando pompa. Bombolino, scusa, è alto, grosso, le piace pompare, avanti Bombolino. Cappa, come l'hai acceso qualche volta questa bestia. Oh, la Gesù Cristo mio, bella calda è adesso. Calda, calda, è bom, pompa, a pompa! Che posso pagare lo smisser mi? Bomboli, butta la pasta! Dai, dai, che sta scaldando! Vamos! Cos'è? Non viene più Natalini! Sei zero, sei zero! Avanti, Alice! Via, gamba! Sono tutta la sera che ho mangiato diretto da pallo, poi mi sono sdraiato. No, con caso ho bevuto l'acqua a fare, non veniva la destra, mi detto che è caldo, ho bevuto l'acqua, la bottiglia che c'era congelata, sono tutta la sera che ho corso a Rurtica. Sono fatto la camomilla, metto la far bollente. L'acqua è congelata, ragazzi, dentro a casa. Per l'acqua bisogna scaldarla. Cata, ma sai che ti fa di mare, Antonella? Ma cosa ti fa male? Guarda, lo sai che ti fa male? Non hai controllato oggi, no? Non hai guardato nulla? Lo so che quando è l'acqua è così, viene bella sozzi, ma quando c'è sette, c'è sette. Il discorso è quello. Vabbè. Da notte già non c'è niente, domani mi faccio minestra, non a giocare e mangiare nulla che hanno. Avanti Maria. Ciao, se ti mangio, un abbraccio, un abbraccio. Beh, si è fatta tutto, vai. Ti stavo dicendo, quella commissione non l'hai controllata oggi, no? Non ho capito di un giorno. Quella questione oggi non l'hai controllato? No, non l'ho guardato, il grosso. In effetti non l'ho guardato stasera. Ero detto a letto, sono rimasto fin tutto 4 giorni. Adesso domani vediamo un po' di controllarlo, tanto già c'ho... come si chiama, qui di fronte l'apparecchio. Devo smontare la scheda e controllare bene cosa diavolo gli faccio contatto qual è. Sì, butta un po' di spray, magari è roba di spray. Benissimo, avanti il bombolino, la pasta è buttata, sì. Grappa, grappa, e buon pugno quando ti arriva, più forte di me. Oh, e adesso no, dai. Adesso buon pugno 9:12, tu sei caso 9:15, 9:18, buon bolino. Grappa, già va bene, dai. Va bene, sì, buttami gli spaghetti, buon bolino. Avanti, Natalì. Mari, io quanto ti arrivo? 9:10, Radio 5, Natalì. Purtroppo... devo rimanere così perché c'ho l'antenna che c'è stazionaria, capito? E non posso fare nulla. Già va bene, non è se basso. Se il segnale è ultimo, la radio è 5 perfetta, Natalì. Cosa vuoi? Va benissimo, ottimo. Magari con altri sistemi arriverai qualcosa di più forte. Ma come segnale è ottimo. Avanti Alessio. No, già arriva forte la Natalino qua. E che c'è l'antenna un po' così, adesso quando sarà il momento opportuno che migliora il tempo, sale su, un'estate antenna ci mette l'altra. Al tempo buono, così fa una e l'altra, approfitta, così al tempo buono, mette l'antenna nuova, si mette qualche antenna a fianco, qualche di povero, ciccia, fa al completo. Vedo Natalì. Eia, c'ho tutto pronto qua. Solo che se non fa tempo buono cosa vuoi fare? Devo procurarmi un palo di almeno 4 metri da mezzo pollice, perché quello che c'è è troppo piccolo e lo butto via quel palo. E quindi per alzarla di più l'antenna devo procurarmi un palo da 4 metri almeno. Però è il fatto che non so come portarlo qua, è quello il problema. Quattro metri è lungo. Mi trovai qualche idraulico e sciabbi la filiera, tagliato in due e filettato, non devi va. Se ti serve il punteggio, già lo sai, te l'ho chiesto anche l'altra volta, c'ho anche le pedane, l'unica cosa è di venire con una moto e caricarlo. Non c'è problema, se serve fischia, vieni e te lo prendi e poi dobbiamo riporti. Avanti bambolini! Appagata! Già siamo qua, dai! Ma io non lo voglio tagliare, il palo, lo voglio tutto unico, in modo che lo entro dentro e lo abbullono, che tanto è telescopico, mi quello che ho io. Tolgo uno e metto l'altro e così ci piazzo l'antenna. Sono quasi tutto pronto, mi ci vuole solo il, come si chiama, quel palo lì per piazzarla. Sì, ma già troverò la soluzione di portarlo qua, uno zingato ne prendo da mezzo pollice, me lo prendo nuovo e così almeno sono tranquillo. Da Marcello di Rubiglie. Ehi, Jaruzogu, solo che non so come portarlo qua, mi ci vorrebbe una motocarrozzella, qualche cosa, boh. Chiami un amico mio e te lo porto a casa. Mezzo pollice, io l'avrei messo a 3/4, è più grosso, 3/4, è più grosso. E Antonio già c'ha amico suo, e 4 metri di trasporto amico tuo, Antonio. Ma un camioncino va. Se lo vuoi così, se no... Che riprendo io, mi stavo chiamando. Ciao Antonio, ciao a Natalino, ciao anche a Alessio, ciao anche all'amico che ha salutato, io saluto anche gli ascoltoni, me ne passa in quelle sigle, mi stavo chiamando, mi stavano chiamando mio nipote. Ok, Alessio, riprendi per me quelle sigle, avanti. Ciao Marie, alle prossime. Ciao Marie, ci sentiamo con una cena, con tutto e domani. Davanti a Natalino. C'è Bombolino che deve salutare. Vai avanti Bombolino. Cappa, saluto a tutti, vai. Io non voglio lasciare, ce la risentiamo che mi è arrivata la pizza. Ehi, pompa, pompa e magna, magna. Ciao Antu, alle prossime. Saluto in famiglia. Anch'io ne approfitto per fare QRT. Saluti da parte di mia moglie anche. Avanti Antone. Ciao, buona mangiata di pizza, ci sentiamo domani. Vabbè, la carità, e chiudo, ci sentiamo domani mattina, intanto devo fare delle prove già sul baracchino, domani mattina. Ok. Ciao Antone, alle prossime. Buon proseguo. Io pure passo in QRT, da. Ciao, ci sentiamo alle prossime. Ci stiamo lavorando, è tanto da fare le prove, quindi. Ok, a domani mattina, ciao. Sono la parola. Uga. Stati tutti a massicare? Stati tutti a massicare? Coppa Maelì, fino a mezzodini. Chissà e ora vengo tu mi arrivi, ma un ordine detto un quarto un altro invece da mezzodini. Che ha abbracciato da mamma su paggioni a forma di peperoni, un mia voce che trucchi e se li fatti mie su le lunghe e buoni su paggioni a forma di peperoni, un mia voce che trucchi e se li fatti mie su le lunghe e buoni. Amico, è nella merda sì, ma con la gente umile, è nella merda che trovi per mangiare, ciao. E buona allora. Ciao, ciao, sono a mangiare, buonanotte. Ehi, è la cucina dei canzoni io. Un jeans nuovo e un paio di scarpe, poi mi metto la tazza. Però a me per il malastro mese mi pare che mi compare un paio di volte. La cosa che di quelle che stavo usando si sono imbarrate. Adesso ho queste qua che sono più buone, ma me ne compro un paio come si deve, dai. Sì, vabbè. Andiamo a Roma, su cui faccio insieme Roma. L'aiuto a regalarmi il burro. Ma stavo regalarmi a vendirmi. E dove ho fatto? Un paio di jeans, poi sulle prossime una camicia pure, dai, a parte faccetto. Come vai a tu, ma che lo faccio adesso? E tu ma te ne avessi per creduno, ora non vai più nessuno. Sì, che stavo parlando poco fa. Ha giurato da Pomponio a provare per cosa e chi c'aveva la portata e mi durava lo smittandareto. Andava a farmi dare la palla e mi durava lo smittandareto. Mi ha giurato da papà e darlo, lui che lo conosce, quell'apparecchio. Io non lo so cosa c'ha. Adesso vediamo se lo fa il difetto. Ma quale? Il keyboard? No! Il coso, l'87. Ah, è volato lui quello. Eia, scappa, boh, c'ha qualcosa, c'ha, non so cosa c'ha. Adesso vediamo, lo tiene in prova. Non ha dato neanche il radio, ripara il radio. Allora, quella che c'è giù aveva un problema, lo smette all'inizio non sale. Che non saliva, adesso poi lo accendo parte subito. Si è ripresa. Purtroppo l'elettronica è strana, Andrew. È strana. Troia. Quanto già hai pigiamato, già? Già cucato il gioco. Ehi, ehi, andava. Ne muove, andiamo. Allora, tra l'altro hanno bloccato due anni, cioè hanno bloccato un tipo in macchina, un chi va alla bretella, ma c'era l'assicurazione. Cioè, ancora non so, mi sono sempre provente, ma proprio c'ho tutti quanti i sistemi che lo possiamo vedere anche noi. C'è chi se un attimo ti bizzingheggia lì, cioè, ma mica la gente qua sta vero. Prima no, poi ti vieni filmato, poi ti portai a voto, ti vieni a assicurazione di bicicli. Allora, da cui fuggi per la battuglia che ti bicicchi? Lo so, si conferma. Vabbè, comunque. È un po' come fare un macco, vai. Ma se non ti ti bicicchi a casa, non ti preoccupare. Non si deve dare il mancamento a bicicchi. Dipende come li sale. È tipo un tipo di conoscere, ma te si hanno bicicletto da una questura, hanno firmato che ero morti senza assicurazione. Mi ha fatto male. E tu adesso non scappi più, no? Troppo così. La legge è legge, la legge è uguale per tutti. Poi per chi tu che magari sarà un occhi, ma comunque non è sempre, trovi quello là, ma stai facendo con ho capito, dea, sono stai mangiando la coperta, capito, tanto male, perché ti sono luci, ti pare che la tiene in pressa, ma sparisci da qua, non ti voglio più vedere, perché se ti riblocco sono affari tuoi. Ma di solito quando di bicicli, no, cioè, si incazzano di più ancora, non devi fare un macco, me. In effetti è così, dai. In effetti è così. Gloria. Ma c'ho qualche mal di testa stasera, brutto. Poi sono occhi tasca, un po' siamo calmato. Ma sai cos'è anche tanto il freddo? Poi mi faccio i capelli corti, troppo corti. Spende chi su che mi butti. Dovrei usare la cuffietta, solo che mi ha altri fastidi, guarda magnazzona. Però cosa vuoi fare, scusami, bustiate magnatona darei pure la cuffietta, perché sennò hai sempre problemi, chi c'è la moto mica del giovanotto che ci si sempre con le mani infuse. È proprio così, è vero, è proprio così la moto. Vabbè, comunque che bello. Io ho caricato un coso. Allo, Halloween. Sacca i Giuseppe. Ah, sono andato mio a proposito da Giuseppe. Giuseppe, cantato hai? Ah, ci siamo trovati benissimo. No, ma non ce l'ho, cioè bravo, non è che... Solo che c'è un periodo che se noi non devi tesserato non ti facevo entrare. Ti ho fatto fare la tessera. No, è la cosa nominativa e fatta. Ma è da un pezzo di mare, a me mi marietta un po' con una tigre. O sbaglio. E poi c'è anche il domacco di Gardena. Già te lo posso vedere. Se posso cantare, lasciatemi cantare con la patata in mano. Ti vengo a ritirare, dunque. Ho capito. Ehi, a tu, E chi cantava faccio la karaoke? Lorenzo Piras, lo conosci? Ah, sì, tu cosa hai cantato? Io un bel canzone. Vabbè. Pensate, ti sei divertito. Cappa. Ma comunque ero... Mi sono trovato bene, la verità. Sei più ridente, Chazzi. Cavolo. Vera che ti sei quanto scimato, cantando, ti vengo a ritirare, Venga. Dai, te lo faccio vedere e poi l'ho ripreso su un'altra canzone. Te lo mando, vediamo se lo conosci, che se sono cresciuto mio. Ah, Aurelio! No, l'altro, chi su magro, è alto. Ah, è un preso. Lea, cosa stai facendo? Si chiama Andrea, lui si chiama Salvatore Pina. Ehi, chi su un ragno? Ehi, Salvatore Pina. Ehi, su Cristo mio, da me ha cantato rose rosse. Ti vegliani di ratto, ti vegliani. E dove va, so via. Salvatore, Gesù Cristo mio, perché ti l'ha mandato me? Sono per spina, avevi ragione. Arrivo a Sardegna. Sì, vabbè, tanto uno si diverte alla fine. Gesù Cristo mio, ma è un bre bravo, poverino, a fine in gamba, ma fate il ridifate. Cazzo, non ho fatto il tempo a riprendere quando si può cantare. Lasciatevi cantare italiano vero che questa volta ha cantato ma è rosa e rosa, ma è una canzone non mi ricordo quale. Tutti ridenti erano. Chi doveva dire che sei biscia delle risate? Sì, se ne giù lui erano. Ma ho saputo, mi ha detto il padre, dice che Valeria è arrivata seconda, hanno fatto un coso Fenac, un karaoke, che c'erano i più bravi, dice che è arrivata seconda. Brava Valeria, cavolo. Sì, ma adesso ci lascia cantare già. Uno è più di un altro, insomma, non è che c'è. Già non so già, ma è brava però. Ma tu lavori anche a Natale, no, Antu? Per 24 si dà. Boh, mi parici. Vabbè, senza la travaglia. Io in teoria dovrei fare 4 ore un'antenna dopo le feste, se vediamo se mi chiamano. E onde? Poi vicino a casa. Meglio di nulla. Mi prima di venire ai nonchi, cazzo me ne ha pigliato una e cosa fai, non la fai, allora proprio, andate per la ciuffata, va. Ma tu è... E cosa vuoi fare? Nulla. Cappa, è troppo così, Vivo pazienza, vivo. Lo so, con ogni cosa ci vuole pazienza. Cappa, ma com'è che neanche mio vicino, via Benedetto Croce, e io ho portata subito. Ma tu è Andu. Cappa. Però non mi è piaciuto quello che mi ha detto. Cos'è? È che non già... vabbè, va. Ma penso che non può andare in fresa. Mi ha detto, cos'è? La mamma mette, no. Non è di vabbè, pressa, mette, mi balli. Ecco, a me ci mette al culo, vai. Non so come mi piace. come stai di sera? Ho corrompicato, l'ho diventato. Sì. Ah, hai compreso, ma per suo babbo che era infuriato, vero? Cioè, c'è soltanto la denchiva, più quel po', ma va, lasciamo perdere, va. Tocca la capigliè, boh. L'unica, a me, ma tu Maria, che c'è un film bello, comico, Canale 5. Ah, lo so, chi si per me è strano. No, ma come, quanto? Capo. Ma comunque, i film fino a qualche anno fa facevano film molto più belli di... facevano capava, fate dei film sciabelli. Lo so, fanno film che fanno cagare. Capo, pochi se ne salvano, ma se ti vince uno a rendere una voce, a me non mi faceva così far nulla, era sciabito, era. Pizza da film a film. A me piacciono sempre quelli vecchi, Bud Spencer, e poi vabbè quelli di Fantozzi, mi piacciono un sacco. Sono divertenti quelli. E allora adesso ci sono toccare la... A me mi piacciono molto, cavolo. Ne vorrei vedere uno questi giorni. Su Netflix ce ne sono tanti. C'è l'etichetta che mi controlla le cicche. Bello. Ho scaricato un coso qua. Ce la faccio. Io esci, vai a fango. Ci vedi tutto, ciao. Ciao. Guarda, fanculo. Su Netflix tu c'è tanta roba. Prendi anche su Netflix. Devi avere lo Smart TV. Ho capito. Ma come ti funziona? Ma a pagamento, Si paga 10 euro al mese. Ma la sussica. Ma ti puoi guardare quello che vuoi, Anto. Sono dei film vecchi. Le direzioni sono un bel. Sì, non manco. Uia, ma di tu che so... Che su Trudione mi ha detto che domani mi può fare il tapparo, che voglio vedere. Mi chiedo con mezzo mancante, mi fa fare la porta a creduno. Dico, se tu mi dai a mangiare via a me, a quelli che porto, cioè, ti porto una serata a me. Cioè, non ti domando, mica sono con paura di gambo mio, si è attento lui. Ah, la sappi di appuntettini. Stiamo lungo a buisuio, per carità. Adesso vediamo cosa dice lui. Adesso commetto fuori il capo, e tu non mi credi, no? Dico, guarda, tu mi metti a disposizione la macchina, mi dai a mangiare via e ti porto la serata. Ah, beh, certo. Mi paghi la GIA e te la porto io. Mica so che fuori, mica lo posso davvero. E allora ce lo lascio con un palmo di naso. Sii attento con me, mi ci comporti bene, perché io lo faccio. Sì, sì, fregata. Anche io combatta uomo. Ho fatto altro. Ma se lasciarlo perdere, via. Che ragazzo vuoi qua? Adesso vediamo cosa vuole fare lui. Non mi giocano. Poi vedi tu. Ma tanto mi gioco molto sul divano. Cazzo, mi gioco a bioccato, mamma mia. Kappa, com'è, ricomincia a comportarsi bene con me. Perché sennò avrà sempre da perdere, avrà. Avrà sempre da perdere. Voglio vedere il programma, cosa dice lui. Voglio proprio vedere. Vabbè. Dove sei? Oh, casino, cazzo, carità. Per carità. Ciao. Vai, dai, io mi avanti al letto, dai, mi gioco drummenti in piedi. Ciao, buonanotte, Lucia, risentiamo. Ciao, domani, buono. Ciao, buonanotte.